Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Quella che avete appena sentito è la sigla che da anni tiene compagnia all'inizio di ogni trasmissione di Eclettica. Con questo nuovo orario magari potrebbe perdere un po' di senso, però io ci sono molto molto affezionato. Valuterò magari solo con la nuova stagione, dopo l'estate, se eventualmente abbandonarla, visto che comunque la descrizione che dà probabilmente non può essere messa in pratica dalla maggior parte di coloro che ascoltano la trasmissione via etere. Per quelli che l'ascoltano via podcasting invece è ancora tutto possibile. Due ex amanti di Molly Lane aspettavano davanti alla cappella del crematorio, dando le spalle al gelo di febbraio. Si erano già detti tutto, ma vollero ricominciare da capo. Non ha neanche avuto il tempo di capire che cosa le succedeva. E quando l'ha capito, era troppo tardi. Se n'è andata così in fretta. Povera Molly. Povera Molly. Tutto era cominciato con un formicolio mentre alzava il braccio per fermare un taxi fuori del Dorchester Grill. Quella sensazione non l'aveva più abbandonata. Nel giro di qualche settimana già faticava a ricordare i nomi delle cose. Questo era l'incipit di Amsterdam di Ian McEwan. You can catch. Tonight, your kids will sleep with your rifle. They will give your rifle a girl's name. Because this is the only pussy you people are going to get. Your days of finger-banging old Mary Jane Rottencrotch through her pretty pink panties are over. You're married to this piece, this weapon of iron and wood, and you will be faithful. Pull your way and wait for me. In Eclettica stiamo seguendo da sempre con attenzione la carriera decennale degli marchigiani Laundrette, arrivati ora ad un nuovo album per Black Candy Records dopo essere passati, se non ricordo male, per Gamma Pop e Suicide. Black Candy Records che ha pubblicato nel mese di aprile, che si è appena chiuso, e State of Form, album nuovo della formazione registrato ai Red House Recording Studios con l'ausilio ovviamente di David Lenci. Il brano che io ho scelto per aprire questo volume di Eclettica era Get Triggered, ma probabilmente ci ascolteremo prima o poi anche la title track. Poi è stata la volta di Windmill con Fit, l'unico brano che per il momento io vi ho fatto conoscere di questo album in uscita nel mese di giugno. Ce ne sono tanti altri che ho già lì pronti da farvi ascoltare prima o poi, e ascoltando anche questi altri brani probabilmente capirete di più quello che sto per dirvi, cioè una sorta di sintesi, un tentativo di sintesi della musica dei Windmill, della loro proposta artistica tra Flaming Lips, Polyphonic Spree e quello che avrebbero potuto essere i Coldplay se fossero rimasti sulle atmosfere di Yellow. Hello, just a thought. You're just a thought. Are you here to confuse me or amuse me? If you're here to amuse me, then maybe I will write you down, write you down. Lo spettacolo per il quale Bryony aveva ideato le locandine, programmi e biglietti, costruito il botteghino con un paravento sbilenco e foderato di carta rossa la cassetta dei soldi, era opera sua. Frutto di due giornate di una creatività tanto burrascosa da farle saltare una colazione e un pranzo. Quando ebbe concluso i preparativi, non le restò altro da fare che contemplarne la stesura definitiva e aspettare di veder comparire i suoi cugini dal lontano nord. Ci sarebbe stato un solo giorno di tempo per le prove, prima dell'arrivo di suo fratello. A tratti pungente, spesso disperatamente triste, il dramma narrava una storia di cuore, il cui messaggio, racchiuso nel prologo in rima, era che un amore non costruito su fondamenta di grande buonsenso ha il destino segnato. Questo era l'incipit di Espiazione di Ian McEwan. shot is mine. My rifle is my best friend. It is my life. I must master it as I must master my life. Without me, my rifle is useless. Without my rifle, I am useless. I must fire my rifle true. I must shoot straighter than my enemy who is trying to kill me. I must shoot him before he shoots me. I will. Before God, I swear this creed. My rifle and myself are defenders of my country. We are the masters of our enemy. We are the saviors of my life. So be it, until there is no enemy, but peace. Amen. You hope to find ways to improve your day.